indagare se il mio amore mi ha tradito. Ho preso il cuore che m'aveva regalato per farne un disco e farlo confessare. Con tenerezza e con amore l'ho schiacciato, poi l'ho bucato nel bel mezzo con un dito. Sul giradisco dolcemente l'ho posato e gira, gira, si mise a canticchiar, picchiar, picchiar, picchiar, picchiar, picchiar. Sono un porro, sono un porro, sono un porro sul giradisco. T'amo ancora, t'amo ancora, t'amo ancora, ma ti tradisco. Per amor, ogni volta ci ricasco. Cacciator, peccator, traditor, mi riconosco. Sono un folle, molto folle, ma un perfetto motorino che parte sempre in quarta a gran velocità. State attenti, molto attenti a non trovarmi sul cammino. Perfetto il motorino, ma freni non ne ha. Sono un porro, sono un porro, sono un porro sul giradisco. T'amo ancora, t'amo ancora, t'amo ancora, ma ti tradisco. Per amor, ogni volta ci ricasco. Io lo so, amerò, cascherò, mentirò, tradirò, ma da te ritornerò. Sono un porro, sono un porro, sono un porro sul giradisco. T'amo ancora, t'amo ancora, t'amo ancora, ma ti tradisco. Per amor, ogni volta ci ricasco. Io lo so, amerò, cascherò, mentirò, tradirò, ma da te ritornerò.